ogni volta che parlo di te. Tu fai parte o non parte di me. Ogni volta che piango per te. Tu fai parte o non parte. Cercherò per non amarti più, ma mai nessuno al mondo sarai tu. E stanotte la passi con lui, ma ogni cosa ti parla di noi. Tutti i nostri amici, tu.